America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da Washington, Mario Platero. The president this morning was tweeting and taking credit in effect for the Saudi Qatari Emirati decision to sever relations with Qatar, which was funding terrorist organizations. Beh, uno sviluppo interessante sulla questione Qatar, perché a un certo momento sembrava che la rottura dei rapporti tra un gruppo di paesi arabi, tra cui Egitto, Arabia Saudita, con il Qatar, fosse stata decisa in modo unilaterale da questi paesi senza coinvolgere gli Stati Uniti. Ebbene, Trump in persona è intervenuto in materia, facendo capire che in realtà, o meglio, dicendo, affermando che in realtà gli Stati Uniti stessi avevano incoraggiato questo tipo di azione e di rottura. Perché? Beh, perché il Qatar in realtà è stato un finanziatore di Hamas ed ha finanziato Hamas, continua ad appoggiare Hamas, un gruppo terroristico che, come sapete, opera nella striscia di Gaza, ha finanziato la Fratellanza Islamica, che è stata molto destabilizzante non solo in Egitto, ma in questo momento lo è anche in Libia. E dunque Trump sostiene che gli Stati Uniti volevano mandare un messaggio indiretto attraverso questi paesi arabi perché ci fosse una dimostrazione molto chiara di come i tempi sono cambiati. Ma io sono qui a Washington proprio perché, come questo sviluppo in Medio Oriente, il mondo è in turbolenza. C'è stato questo convegno dell'Aspen Institute, si è parlato di rapporti transatlantici fra Stati Uniti e Europa e anche ovviamente Italia, e c'è stato un tema che mi ha interessato molto, perché con il multilateralismo in crisi, con la globalizzazione sotto attacco, se ci sono delle prove di dialogo anche a distanza, secondo me sono importanti, e questa prova di dialogo c'è stata proprio nel contesto di questo convegno dell'Aspen Institute fra il nostro ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda e il segretario al commercio Wilbur Ross, che è considerato un falco del commercio, è considerato l'ispiratore di molte delle tentazioni protezionistiche di Donald Trump. Ebbene, ci sono stati degli sviluppi interessanti, perché in questo dialogo a distanza si è visto che poi ci possono essere degli spazi su cui lavorare. Ecco, la tematica dell'apertura, del dialogo sui commerci, secondo me è fondamentale, e questo lo dico anche per, diciamo, i nazionalisti nostrani, ecco, che non lo dimentichino, perché l'Italia vive di esportazioni, e scherzare con l'idea di innalzare barriere commerciali o di prendere contromisure contro l'America di Trump, che per ora lancia molte parole e per fortuna pochi fatti, non giova a nessuno, come secondo me non giova a nessuno l'idea di fare dei passi indietro sull'apertura dei mercati europei, sull'introduzione dell'euro e così via, così via. Diciamo che molte cose vanno migliorate, vanno cambiate, ma buttare tutto via, diciamo, è pericoloso. It's a true privilege and pleasure for me to introduce the work that we are going to have later this afternoon. I remember a conference in Aspen, Colorado, 3 years ago. Discussion was on USA, Europe and Russia. Ecco, vi ho fatto sentire in successione la prima dichiarazione di Armando Arricchio, l'ambasciatore italiano a Washington, che ha aperto i lavori, poi quelle di Giulio Tremonti, che è il presidente dell'Aspen Institute, e devo dire Tremonti soprattutto è stato molto chiaro su quelle che possono essere delle azioni della Germania che vuole proporsi come coagulatore dell'Europa. E invece no, dice Tremonti, è molto più importante avere un'apertura transatlantica, mantenere il rapporto transatlantico. Ed è proprio su questo che Wilbur Ross e Calenda hanno recuperato, devo dire, secondo me, alcuni punti interessanti, perché entrambi hanno detto di voler riprendere il TTIP, cioè il negoziato per la creazione di un'area di libero scambio nell'Atlantico. Entrambi hanno detto di essere aperti a modifiche dell'approccio negoziale, perché ovviamente passano gli anni e delle cose devono cambiare. E entrambi hanno anche dato l'impressione che del brutto viaggio di Donald Trump in Europa si è capito poco, o meglio, qualcuno, e Angela Merkel in particolare, ha capito fin troppo bene quali opportunità si aprissero grazie agli scivoloni semantici del presidente americano. E dunque, grazie a queste sue maldestre uscite, che potevano sembrare aggressivi soprattutto nei confronti della Germania, la Merkel ci ha fatto capire che l'obiettivo di una Germany First passava proprio in quei giorni da, come dire, sentimento privato mai confessato a una dichiarazione pubblica. Our unemployment rate Ecco, qui ho sentito una domanda che ho fatto al segretario al commercio Wilbur Ross durante gli incontri e devo dire in generale Wilbur Ross, nel caso specifico appunto parlavo di Germania e del fatto che la Germania ha voluto approfittare di una situazione che in fondo non comportava nulla di nuovo, perché quello che ha detto Donald Trump, e cioè che la Germania ha un surplus commerciale inaccettabile all'8%, quando Obama si lamentava del surplus commerciale il livello era del 7%, dunque le cose sono peggiorate, è logico immaginare che un presidente americano si lamenti di un surplus che è fuori dalla norma, è solo che Obama lo faceva in partnership con gli stati europei e Trump è stato, secondo me, scioccamente molto più unilaterale, molto più duro sul piano verbale. E dunque la risposta di Ross a questa mia domanda su questo ruolo della Germania è stata molto più conciliatoria, dice ma no, noi con la Germania andiamo benissimo d'accordo, dunque distensione su quel fronte, ma poi Ross ci ha dato anche la chiave di lettura di certe impostazioni americane per riequilibrare le bilance commerciali e lui dice non c'è bisogno di tariffe o di protezionismo, basta che alcuni paesi che hanno un forte avanzo vadano a correggere il tiro semplicemente acquistando cose di cui hanno bisogno dagli Stati Uniti. Per esempio parliamo del gas, dice Ross, il presidente Trump cambierà le regole per l'esportazione di carburanti fossili e se il fabbisogno di un nostro partner richiede importazioni, bene, potranno importare da noi e contribuire a una riallocazione degli scambi commerciali. Dunque la posizione è, beh, cercate di comprare qualcosa da noi se potete, perché questo da solo può aiutare. E poi devo dire non si può dare torto a Ross quando dice che l'America da sola assorbe il surplus combinato del resto del mondo. La cosa non può funzionare in modo strutturale, questo ce lo dice ogni testo di economia. I think the issue that we're going to discuss today is also a key to rebalance. Ecco, e qui sentiamo il ministro Calenda, anche lui è intervenuto e parlando di TTIP, beh, ha risposto a Ross. Beh, Ross che cosa aveva detto? Aveva detto l'importante secondo me è trovare gli accordi, certo potremmo farli sul piano multilaterale, si potrà andare anche avanti, però è molto complesso lavorare sul piano multilaterale, per cui se potessimo metterci d'accordo su cose individuali, singole, magari più facili da fare subito, beh, degli accordi parziali non sarebbero male. Calenda risponde, beh, se Stati Uniti e Unione Europea non assumeranno il ruolo guida nel percorso di governance della globalizzazione, beh, lo avranno degli altri e ci sarà un danno, dice Calenda, per le nostre economie e per i nostri cittadini. Certo, la guardia da noi deve restare un pochino alta perché abbiamo 28 miliardi di dollari e dunque, visto quello che dice Ross, non è detto che possiamo poi acquistare talmente tanto materiale dagli Stati Uniti per riequilibrarlo. E dunque è lo stesso Calenda che poi dà un ammonimento all'America, perché dice una cosa è difendersi dalla concorrenza sleale, tutti devono fare fair trade, dunque un commercio leale che poggia su regole chiare. Un'altra cosa è proteggersi dalla concorrenza, dice Calenda, e questo naturalmente sarebbe sbagliato, non solo per gli Stati Uniti o per l'Italia, ma per tutti, perché l'unica risposta sarebbe quella di una ritorsione multipla e allora lì, beh, passeremmo al caos e dunque a difficoltà per l'economia. Da Washington è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!